io la canticchio. 15.01, Federico canticchia la sigla di Tracce di Cinema, bella, oggi giovedì, bella. E sono le 3, e quindi come ogni giovedì o quasi inizia la trasmissione Tracce di Cinema. Parliamo di musica, ascoltiamo il cinema e facciamo approfondimenti oggi su non un film ma ben 3 film. E soprattutto io sono felicissima di fare la puntata di oggi, perché mi piace un sacco questa cosa di questo festival, alla sua seconda edizione, giusto? Esatto. E il Soundscreen Film Festival, che si tiene, Fede? Al Palazzo del Cinema e dei Congressi a Ravenna dal 1 al 9 aprile, e sentiremo il direttore Albert Bucci. Sono molto felice perché proprio insomma è una cosa che ci riguarda a pieno, perché è un festival proprio sui film, con delle colonne sonore importanti, che siano film di insomma documentari, biopic. E tra l'altro Albert è stato già nostro ospite a Tracce di Cinema per parlare di un film che abbiamo scelto noi. In questo caso invece i film li ha scelti lui, sì, perché partecipano al festival e noi ne abbiamo scelto le musiche. E noi siamo stati entusiasti proprio anche di insomma di condividere, abbiamo condiviso con gioia le sue scelte, perché sono 3 bellissimi film, 3 bellissimi documentari. Parliamo del documentario diretto da Martin Scorsese su Bob Dylan, no? Direction Home, del 2005, che tra l'altro io questa puntata mi ha impegnato più di tutte le altre messe insieme, perché è la colonna sonora più sterminata che ho mai visto. Sì. 121 brani in colonna sonora. Sono 121 entrambi i film. No, soltanto quello di Scorsese. Ah, non ci avevo fatto caso. Ma facciamo anche quello di Todd Haynes? Poi alla fine. Sì, io credo, se ricordo bene, il brano, la cover di Vedder viene proprio dall'altro film. Quindi anche parleremo anche un pochino di I'm Not There di Todd Haynes, regista che insomma di cui abbiamo parlato durante qualche puntata fa. Questo documentario sulla vita di Bob Dylan è invece del 2007. E poi Miles Ahead, ci riferiamo naturalmente a Miles Davis, mi riferisco naturalmente al Miles Davis, 2015, il regista e interprete anche è Don Cheadle. Non è proprio un documentario questo, ma insomma è un film che ripercorre la vita di Miles Davis e soprattutto un periodo in particolare. Sì. E con anche delle interviste eccetera di repertorio. E poi chiudiamo in bellezza, Fede, con il nostro preferito, non siamo mai stupidi di suonarlo e di ascoltarlo, Iggy Pop, il documentario meraviglioso non capita poi neanche spesso nella trasmissione, perché non ci sono così tanti film che abbiamo trattato in cui l'ultimo, cioè abbiamo messo anche un paio di brani, ci abbiamo lavorato, però non è facile trovare film in cui ci sono gli Stooges e Iggy Pop. È vero. Stiamo parlando appunto di Sir Iggy Pop, e il documentario diretto da Jim Jarmusch è Gimme Danger. E quindi insomma poche chiacchiere oggi, tanta musica, e iniziamo subito con Bob. Dai. Got your brand new Leopard Hellbox head. Yes, I see you got your brand new Leopard Hellbox head. Well, you must tell me, baby, how your head feels under something like that, your brand new Leopard Skin Pillbox head. Jump on it sometime. Well, you look so pretty in it, and I just wanna see if it's expensive kind. You know it balances on your head just like a mattress balances on a bottle of wine. Your brand new leopard skin pillbox head. Stare. leopard skin pillbox head. Your brand new leopard skin pillbox head. Well, I see you got a new boyfriend. Yes, I never seen him before. And I saw you making love with him. You forgot to close the garage door. It's a brand new leopard skin pillbox head. Leopard skin pillbox hat. Devo dire che mi sono mosso con cautela, perché sapevo che ad Ottavia non piace Bob Dylan, e allora sono andato a scegliere anche dei brani, oltre a una cover di All Along the Watchtower di Eddie Vedder, ma anche altri due brani come questo che sono meno conosciuti. Questo brano è del 1966 e è veramente un bel brano, e è divertente anche il testo, perché è un Dylan un po' così, un po' sbarazzino, un po' cattivello nei confronti delle, diciamo, delle newyorkesi alla moda, e infatti parla di questo cappello a bustina leopardato, e questa è la traduzione del titolo del pezzo, che veniva spesso usato in quel periodo, e era un po' una metafora non solo per prendere in giro questo pezzo di società un po' così effimero, ma anche una metafora proprio per criticare l'assurdità del materialismo in generale. Looking for a new friend, a man in a coonskin cap and a pigskin pants, wants $11 bill. Subterranean Homesick Blues, un brano più o meno contemporaneo, scritto sì, un anno prima dell'altro, era il 1965. Esattamente, e la cosa interessante, insomma, l'ho andata subito a vedermela perché me ne hai parlato adesso tu, Federico, è il video che fu uno dei primi video, diciamo, moderni per il periodo, progenitore di quelli che diventeranno poi video musicali di MTV, insomma, di adesso. E non era un video vero e proprio, ma era, diciamo, un segmento tratto da un film che era stato girato, un documentario su un tour di Bob Dylan, e nel film Dylan, fautore dell'idea, tiene in mano dei cartelli rivolti alla telecamera sui quali sono scritte le parole del testo del brano, che lui fa cadere ad uno, cercando di mantenere il ritmo man mano che la canzone prosegue, le strofe si susseguono. I cartelli erano stati scritti la sera prima da Donovan, grandissimo, Allen Ginsberg, Bob Newhart e Dylan stesso. Beh, insomma, una bella storia. Ci manteniamo su questi ritmi, però poi, per coprire anche l'altro film di cui stiamo parlando, sui tre che erano a disposizione, ne abbiamo scelti due perché l'altro era Pat Garrett e Billy the Kid, che però è stranoto e del quale pochi sono i brani disponibili in rete perché sono tutti molto ben coperti. E allora ci sentiamo lo annunciavo prima, di Eddie Vedder, la cover di All Around the Watchtower, che fa parte della colonna sonora del film di Todd Haynes. Esatto. Ok. Eddie Vedder and the Million Dollar Bashers con Elle Long, The Watchtower, cover di Bob Dylan, per parlare anche dell'altro film. E le prime due tracce erano tratte dal documentario di Martin Scorsese, questa invece dal film di Todd Hines. Eh sì, il primo è un documentario proprio che racconta per immagini, musica e le testimonianze della vita di Bob Dylan dagli esordi fino a diventare, insomma, il musicista della contestazione e poi per diventare poi l'icona rock che insomma che è diventata, mentre invece questo di Totenz è proprio un film, no? Con tantissimi, sì, attori che interpretano vari personaggi, ognuno dei quali è una versione di Bob Dylan, sì. Allora, abbiamo in collegamento Albert Bucci per parlare della seconda edizione del Soundscreen Film Festival, ricordo, al Palazzo del Cinema e dei Congressi di Ravenna dal 1 al 9 aprile. Albert, ben ritrovato. Grazie a voi, ben ritrovati a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie. Tra l'altro Ottavia era felice di questa tua partecipazione e ci terrebbe tantissimo ad essere al festival. Venga. L'anno prossimo vengo, Albert. Vabbè, che viene anche quest'anno. Sì, adesso ancora deve cominciare, infatti, dai. Mi organizzerò. Allora Albert, per chi ci ascolta, raccontiamo un po' com'è lo spirito del Soundscreen, com'è nato e come si sta sviluppando. Ma guarda, è nato da un'idea balzana, forse, nel momento in cui mi sono reso conto che molto cinema ha a che fare con la musica e non semplicemente perché ci sia una colonna sonora. Molte volte la musica è protagonista attiva in molti film e mi è venuto questo progetto, appunto, di elaborare un festival nel quale proiettare film dove la musica sia protagonista. Per protagonista intendo dire in maniera molto trasversale, come per esempio un piccolo omaggio che facciamo quest'anno, appunto l'avete citato prima, Bob Dylan per esempio, che è anche uno dei massimi esponenti della trasversalità artistica. Poi probabilmente credo che finalmente riterrà il Nobel questo fine settimana proprio. Sì, è vero. Perché lui è musicista, gli è andato il Nobel per la letteratura, però è stato anche protagonista in molto cinema, appunto Sam Peckinpah, Martin Scorsese, il biopic di Todd Hines di cui avete appena parlato. Insomma, sono quei personaggi lì che interessano moltissimo, un po' come anche Jim Jarmusch. Non so se avete già affrontato il tema Jim Jarmusch. No, allora abbiamo cominciato con Bob Dylan, di cui abbiamo mandato due brani anche meno conosciuti, e poi questa cover di Eddie Vedder, per poi passare a Miles Davis ed andare in accelerazione poi con gli Stooges e Iggy Pop. Miles Davis, perché quest'anno sono usciti paradossalmente due biopic interessanti su due trombettisti. A questo punto, appunto, Miles Davis, che è questo film Miles Ahead, che è uno strano film biografico esclusivamente concentrato sui 5 anni nei quali Miles Davis si isolò completamente, era strafatto di ogni sostanza possibile e immaginabile, una crisi creativa fortissima, giravano rivoltelle in casa sua. E quindi, e poi anche quest'altro documentario invece su Enrico Rana, che proietteremo, per cui abbiamo creato anche questo evento, appunto, alle trombe del jazz, appunto, di cui avete parlato prima con Miles Davis. Ma ho anche un altro personaggio trasversale, appunto, era Jim Jarmusch, di cui volevo parlare, che è un grandissimo regista, ma è anche un musicista lui stesso, giustamente. Sì. E ha appena realizzato questo famoso fenomenale documentario sui hip hop e gli Stooges. Sì. Allora, per questa puntata abbiamo ragionato con te su tutto quello che avresti ospitato al Soundscreen e abbiamo tirato fuori questi tre artisti come riferimento principale. Se volete. Sì. dopo Bob Dylan è la volta di Miles Davis. Ecco, di questi lavori che ospitate su Miles Davis, come mai è caduta su questi la scelta, Albert? Ma guarda, è molto casuale, nel senso che hanno fatto un film su Miles Davis, ecco, nel senso buono della parola. Sì. Cioè, escono dei film ogni anno e quest'anno è uscito questo film su Miles Davis, quindi non è che li, come si dice, li li preordiniamo. Ci sono occasioni e convergenze simpatiche che bisogna sfruttare, ecco. Sì. Senti, allora intanto tornando invece anche a Bob Dylan, stavo dicendo prima ad Ottavia che è la puntata che più mi ha impegnato, perché solo per ascoltare la colonna sonora del documentario di Scorsese sono 121 tracce. Una colonna sonora sterminata. 3 ore e mezzo. È una cosa incredibile. Sì, è enorme. E Albert, io invece ti volevo chiedere una cosa: a parte questi tre film, diciamo, piuttosto biografici su questi tre grandi artisti, protagonisti della musica, ci sono all'interno del festival anche proprio dei film semplicemente destinati al cinema che avete scelto per l'accuratezza della colonna sonora, certo. Questi che abbiamo detto sono i più noti, nel senso su quelli su cui si possono spendere dei nomi famosi. In realtà il target principale del festival è quello di cercare dei film internazionali che vengano in concorso, che appunto abbiano narrativamente e stilisticamente la musica come elemento predominante principale del loro film, per dirti. Faccio un esempio: sabato apriamo con un film israeliano su un rapper palestinese che abita a Tel Aviv. È una specie di West Side Story, anche perché questo Tel Aviv sembra più calibro 9 Bronx che la striscia di Gaza, per dirti una cosa. Sono rapper palestinesi che hanno degli scontri di gang con dei rapper ebrei ultraortodossi, per farti un esempio di quello che sono il sapore dei film che affronteremo. Oppure Green Room, un altro meraviglioso noir americano, una scalcinata banda punk che si trova in un locale di skinhead e c'è di mezzo un omicidio, ma classicamente noir, un po' la True Detective per intendersi, con un stile narrativo. E per esempio in Green Room, che penso che, visto che me l'hai citato, forse è tra i tuoi preferiti? Sono i primi due che facciamo. Ok, ma per esempio Green Room a brani. Non posso dire che ho dei film preferiti, se no dopo si arrabbiano con me. Non puoi dirlo, certo. Ho un documentario una docu fiction su due DJ di techno iraniana costretti a scappare da terra. Questo ci interessa. Il titolo qual è? Raving Iran. Poi ho Singing in Graveyards, cantando sulle tombe, è un rocker filippino, cioè è un film, praticamente è una fiction in cui il protagonista è il Ligabue filippino. Ora nessuno di noi sa chi sia il Ligabue filippino, però esiste, è famosissimo, probabilmente guadagna anche più di Ligabue in Italia, però è un Ligabue filippino. Ed è un film di fiction in cui lui fa l'attore, ecco, per i tennis, ed è coprotagonista anche Laf Diaz, che è il regista filippino che ha vinto l'ultimo Leone d'Oro a Venezia. Senti Albert, io ti invidio, naturalmente un'invidia buona, perché era il mio sogno dare vita a un festival come Soundscreen. Lo trovo proprio un'idea geniale. Io vi verrò a trovare sicuramente, con Federico anche verremo a vederci un po' di film e abbiamo la sonorizzazione di Alberto Ferrari dei Verdena. Mica male. Perché il nostro evento di chiusura ogni anno per noi il simbolo sono le nuove sonorizzazioni, filmuti classici degli anni 10 e 20, ma sono arrivati da vivo non da orchestre libri, non da orchestre classiche, bensì da musicisti contemporanei. Sabato sera chiudiamo il festival, poi con questo, con lo prossimo, con Alberto Ferrari de Verdena, che musica da vivo un film di Robert Dean, l'autore del gabinetto del dottor Caligari, un 81 minuti live performance, per intendersi. Quindi sarà anche quella. C'è qualcuno che diceva che l'unico vero cinema che è mai esistito è stato proprio quello muto, in cui poi la colonna sonora poi la faceva da padrona e dava un senso poi molto dinamico al film, no? Mi ricordo anche che qualcuno mi ha detto, c'è una reinterpretazione davvero, e quindi paradossalmente arrivi ad avere una nuova opera, perché il film muto di 100 anni fa sonorizzato da qualcuno o da qualcun altro cambia completamente prospettiva. In questo caso diventano proprio degli eventi unici, forse il primo e unico caso in cui il cinema esce, come dire, dalla sua replicabilità tecnica, no? Sì. Perché dire, il cinema è una cosa che replichi, mandi un DVD, mandi una pellicola, mandi un DCP, è sempre quello. Allora, invece, se tu proietti un minuto e qualcuno ci suona dal vivo, è quello l'atto unico, è una specie di performance, diventa più teatro e più concerto, certo, se volete. Senti, certo. Albert, è l'unico modo in cui riesci a togliergli quella muffa, se volete, dovuta allo star fermi in una sala, ecco, perché l'unica cosa fastidiosa, se volete, è quello, dipende dalla comodità delle sale. Allora, noi... Ah sì, no, okay. Volevo fare un'ultima, chiederti l'ultima cosa, a parte che vorrei chiederti 3000, farti 3000 domande, ti vorrei tenere al telefono 3 ore per chiedere tutto quello che vorrei, ma insomma, a prescindere da questo, ci vogliamo risentire alla fine del festival, certo, per sapere chi è il certo vincitore e magari ascoltare la colonna sonora sì del film durante le tracce di cinema? Va bene, aggiudicato, ci riorganizziamo. Mi piacerebbe un sacco. Bene, ci riorganizziamo con questo allora, la settimana prima di Pasqua. Noi okay finiamo l'8 okay e il 9 andiamo con delle repliche, ma noi finiamo di fare l'8 aprile. Sì. Allora, Albert, ci lasci tutti i riferimenti per chi sì ci ascolta? Sì, sì. www.soundscreen.org è il sito, ci sono tutte le informazioni, soundscreen.org, non c'è .it, non c'è .com, è .org. Benissimo, allora ti grazie ringrazio, un abbraccio, grazie in bocca al lupo e a presto. Grazie a voi, ciao ciao ciao ciao, ciao. Siamo passati a Miles Davis, questo era Black Satin, un bel miscuglio. Sì, sì, un bel pezzo, Fede, del 72, faceva parte di un album dal titolo On the Corner e è stato fortemente criticato questo pezzo quando è uscito, anche insomma anche proprio il disco ha ricevuto moltissime critiche, perché insomma Davis era stato un po' accusato di aver tradito un po' se stesso, perché aveva virato verso una musica più commerciale, più appetibile. Invece poi dopo, insomma, a dispetto di tutto quello che era stato detto, l'album fu uno dei più grossi successi, è stato rivalutato negli anni eccetera, e pensa che di questo pezzo è stato detto che fu anticipatore di tecniche e generi musicali come il punk e l'hip hop. Herbie Hancock che rifà Miles Davis, What's Wrong With That? Sì, un pezzo dal vivo, e chiude proprio la colonna sonora del film, questo film del 2015, Miles Ahead, diretto, l'esordio alla regia di Don Cheadle, ha avuto una lunghissima preparazione e ha rischiato di non vedere mai la luce, perché non si trovavano i quattrini per produrlo, e tanto che a un certo punto il regista ha deciso di ricorrere a un crowdfunding per raccogliere i fondi mancanti e poter dare via alla produzione. È interessante perché, al contrario dei tanti documentari su questo grandissimo musicista, racconta, come diceva il nostro ospite prima, proprio un periodo, il momento più tragico della vita di Miles Davis, gli anni 60, in cui in questo periodo Miles Davis era caduto in una tremenda crisi creativa a causa delle droghe, di una sua forte depressione, e appunto il regista si è chiesto come fosse possibile che un attore così prolifico, così innovativo, capace di rinnovare la musica a un livello così alto, a un certo punto decida di fermare la sua attività. E così ha pensato proprio di definire e raccontare proprio questo periodo, che forse poi è quello più, anche più misterioso, ecco, insomma. Musicista, hai detto attore. A musicista? No, un attore. Parlavo di Miles, hai detto attore. Ah, sono sbagliata. No, perché Cheadle fa anche l'attore. È Miles Davis nel film. Sono confusa. E tra l'altro ha imparato a suonare la tromba lui per il film, è diventato anche abbastanza bravo, leggevo in giro su internet. Insomma, si vanta molto di questa cosa. Si vanta molto di questa cosa. Ancora Miles Davis con Duran. Sì, altro gran pezzo modernissimo, 1981, insomma già più vicino a noi. Una cosa per spiegare a chi ci ha fatto notare di quanto fosse una persona non simpatica Miles Davis, veniva chiamato proprio il principe delle tenebre, veniva chiamato, era questo il suo soprannome, che a parte la qualità notturna insomma della sua musica, era anche un soprannome che gli veniva dato proprio perché era una persona molto timida e insicura, ma gentilissima, che spesso utilizzava l'aggressività come difesa, la palestiana, insomma, che insomma una cosa che ci arrivano, lo sanno tutti, ecco, per al nostro critico del giovedì. E continuiamo, Fede. Dopo tre brani di Bob Dylan, tre brani di Miles Davis, è l'ultimo personaggio dei nostri quest'oggi, Iggy Pop and the Stooges. Per niente timido. 1969, Iggy Pop and the Stooges, la loro psichedelia ossessiva. Sì, volevo fare una precisazione, ho detto prima una sciocchezza, il brano in questione Duran, che abbiamo ascoltato, l'ultimo brano che per quanto riguarda Miles Davis, fa parte di un album dell'81, ma era probabilmente uno tra i brani inediti che erano stati registrati dal musicista tra il 1960 e il 1970, quindi insomma sì. Aveva un suo fascino proprio perché non faceva parte, diciamo, di un'epoca proprio insomma contemporanea, ecco. Look out. Per Iggy Pop and the Stooges, siamo ai saluti. Sì, velocissimo, una cosa. Vai. Sul documentario di Jarmusch, bellissimo. L'abbiamo visto tutti e due. Sì, stupendo, ci è piaciuto un sacco. Fatto con grande amore da questo regista, che proprio definisce gli Stooges e Iggy Pop la più grande rock band di ogni tempo, e quella sicuramente che ha aperto la mente a tanti che sono venuti dopo. È veramente ben fatto, interviste favolose che non risparmiano niente riguardo alla formazione comunista, droga, follie sul palco, i rapporti con gli altri gruppi, Nico, John Cale e Andy Warhol, che gli suggerisce di fare una canzone di scrivere una canzone leggendo il giornale. Insomma, un bellissimo documentario, se avete la possibilità guardatelo, perché è veramente figo. Gimme Danger, Jim Jarmusch. Ci sentiamo giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16. Tracce di cinema @ondarossa.info. Ci lasciamo con Dirt. 7 minuti, io la dedico a Valentina. Grazie del tè. Ciao. Feel it when